harta. Estoy harta. Harta de que decidan sobre mi cuerpo. Y que el Estado no garantice mis derechos. Estoy harta. Harta de que la Romina Tejerina la tengan en cárcel por ser violada. Estoy harta. Estoy harta. Harta de no poder usar libremente mi tiempo y mi dinero. Estoy harta. Harta, harta. Estoy harta. Entonces, estás harta de la violencia machista. Y es hora de volver a decir, basta. Basta. Basta. Harta Frecuencia, por Red Nosotras Radio. Este 25 de noviembre, a 30 años de la lucha organizada en contra de la violencia hacia las mujeres, escucha Harta Frecuencia. Por Red Nosotras Radio. www.rednosotrasenelmundo.org. E allora inizia il nostro approfondimento di oggi. Quello che abbiamo ascoltato è uno spot di Harta Frequenzia, è una playlist di trasmissioni di femministe, di donne e lesbiche in Europa e non solo. Siamo quindi in differita, però andiamo in onda anche dalla palinsesto della Red Nosotras e nel Mondo. Potete ascoltarlo sul sito www.rednosotrasenelmundo.org. Salutiamo le donne all'ascolto. E cominciamo. E quindi sì, salutiamo le donne che ci stanno ascoltando adesso, ma quelle che ci ascolteranno in Spagna il 25 novembre, quindi un hola in spagnolo. Hola. Hola. Parleremo anche della Spagna in questo mini pimer, avremo un collegamento con Barcellona, ma ovviamente le iniziative su cui ci concentriamo sono sostanzialmente in Italia. Lo ricordiamo, è uno spazio di approfondimento in previsione del 25 novembre di quest'anno, giornata mondiale, internazionale contro la violenza degli uomini contro le donne. Moltissime le telefonate che ci aspettano in questa serata, ascolteremo diverse compagne, insomma, che ci racconteranno le iniziative che ad oggi sappiamo si organizzeranno. Iniziamo con Roma, con per Roma. Comodità. Ciao Elisabetta. Ciao. Allora, la coordinamento femminista e lesbica di Collettivi e Singole, prima di tutto vuole salutare Noemi, che è una nostra compagna della coordinamento romana, che purtroppo venerdì ha avuto un bruttissimo incidente in motorino, che è ricoverata al San Giovanni e che, a cui mandiamo un abbraccio grandissimo, un bacio grandissimo. Ci uniamo, anche da tutta, anche da tutta la tutto il martedì. E quindi intanto noi leggiamo quello che abbiamo fatto come chiamata per il 25 novembre contro la violenza maschile sulle donne. Donne non si nasce, si diventa. La definizione biologica di donne non ci appartiene, come non ci appartiene il concetto di donna, strutturazione fittizia del patriarcato in funzione dell'asservimento e dell'oppressione. Donna è una categoria socialmente costruita ed è un termine tutto interno al sistema patriarcale, ma è l'oppressione stessa che definisce l'insieme delle oppresse. Ci rivolgiamo perciò a tutte coloro che sentono l'oppressione maschile sulla loro pelle e che questa società vuole, con sistematicità e violenza, mantenere e ricondurre nei suoi paradigmi. Perciò la coordinamento femminista e lesbica di Collettive Singole invita le donne, le compagne, le femministe e le lesbiche alla manifestazione, discussione e confronto sulla violenza maschile sulle donne venerdì 25 novembre 2011 dalle ore 17 all'isola pedonale del Pigneto, dove sarà presentato anche l'opuscolo contro la violenza maschile sulle donne che abbiamo fatto e su cui discuteremo in effetti. E aderisce ai giorni di mobilitazione indetti detti dalle femministe spagnole dal 25 novembre al 10 dicembre contro la violenza istituzionale sulle donne, con appuntamenti di lotta e di diffusione del nostro opuscolo che vi faremo sapere. Eh sì, infatti, il tentativo infatti anche di questa trasmissione è un po' di rendere visibile tutte queste iniziative che poi sennò sono un po' così sparpagliate sul web. È interessante questo lancio che ci fai su l'iniziativa delle femministe indignate di Barcellona, certo, che hanno una piattaforma di mobilitazione molto ampia e serrata, sì, per variegata, e molto interessante, quindi poi loro ci diranno, in effetti ci racconteranno. E infatti proviamo direttamente allora a collegarci con loro, facciamo uno stacchetto musicale e... con Barcellona. Allora vi mando questa canzone che hanno fatto loro, le femministe indignate. Perfetta. El pueblo organizado funciona sin Estado. El pueblo organizado funciona sin Estado.

Las cabezas negras su rostro nunca pueden descubrir. En todos los países el 80, el 90% maltratadas hasta morir. En todos lados te meten pase. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. E allora torniamo in diretta con Florence. Florence, ci senti? Sì, vi sento benissimo. Ciao. Bene. Ciao, ben trovata. Siamo contente di sentirti. E allora, abbiamo non moltissimi minuti per parlare con te, però appunto ci interessava molto avere qualche informazione su questa grande mobilitazione che state organizzando a Barcellona dal 25 novembre al 10 dicembre. E la stanno organizzando tu e un gruppo di femministe indignate, giusto? Esattamente, l'assemblea di femministe che si è creata durante la campata di Barcellona all'interno del movimento del 15M. Ecco, e è un gruppo, siete molte, molto eterogeneo, immagino, visto che c'è un programma vastissimo di queste giornate, insomma, spazia moltissimo. Siamo tante, siamo molto eterogenee, diciamo che è stato un po' uno spazio di riflessione e di azione che dove c'è stata una convergenza di vari tipi di femminismo, di varie femministe, donne, lesbiche, trans, per cui sì, sicuramente una delle caratteristiche di questo spazio di riflessione e azione è la pluralità e la diversità dentro della complementarità in qualche modo, diciamo. È una cosa, diciamo, è un movimento che si trova principalmente lì a Barcellona oppure anche in altre città? Beh, diciamo che all'interno di ogni accampata, le accampate che si sono costituite dopo le manifestazioni in tutto lo stato spagnolo del 15M, in molte delle accampate si sono costituite delle commissioni o assemblee femministe o di genere, dopodiché in ogni luogo ha avuto uno sviluppo particolare e distinto. Ci sono alcune assemblee femministe dentro del 15M delle accampate che sono miste, altre no, altre che si sono fusionate con gruppi lesbici e trans, per cui diciamo sì, le femministe indignate sono l'assemblea di femministe di Barcellona dentro del 15M. Ho capito, va bene. E invece venendo a questi 16 giorni, insomma, di attivismo, come sono nati e poi appunto come un pochino se ci puoi parlare del loro svolgimento? Certo, certo. Beh, diciamo che l'idea della campagna dei 16 giorni di attivismo contro le violenze di genere è venuta fuori nel momento in cui stavamo riflettendo sulla opportunità e le modalità di partecipare a questa convocatoria del 25 di novembre come giornata internazionale contro la violenza contro le donne e le bambine, che porta con sé un po' tutte le contraddizioni e i questionamenti che comportano queste convocatorie simboliche a livello internazionale. Abbiamo deciso che comunque volevamo essere presenti con la nostra autonomia, diciamo, rispetto alla convocatoria più ufficiale, più istituzionale, e ci siamo ispirate in qualche modo a questa campagna internazionale dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, che è una campagna internazionale che viene da un istituto di ricerca statunitense e il cui obiettivo è appunto non solo visibilizzare la violenza di genere come una violazione dei diritti umani e quindi anche per questo vincolare e collegare la data del 25 di novembre alla data del 10 di dicembre, che è la giornata internazionale dei diritti umani, e coprendo anche la data del 1 di dicembre, che è la giornata di lotta contro l'HIV e l'infezione da AIDS. Diciamo che è un'adesione informale, nel senso che ogni anno questa campagna dei 16 giorni ha un tema specifico. Noi non aderiamo necessariamente a questo tema, però sì, l'abbiamo presa come una buona pratica per poter visibilizzare dentro la città di Barcellona il tema della violenza di genere e delle violenze di genere in tutte le sue o in molte delle sue espressioni e manifestazioni. Allo stesso modo ci è sembrato anche un modo per rafforzare i vincoli e le collaborazioni con le distinte assemblee di quartiere, che sono altre componenti del movimento del 15M, per cui abbiamo pensato che l'organizzazione di una serie di attività non solo ci dava la possibilità di denunciare e visibilizzare le varie forme di violenza di genere, se no anche portarle e farle atterrare al territorio locale e a rafforzare i vincoli con le distinte assemblee di quartiere. In questo senso, diciamo, abbiamo cercato la metodologia per costituire questa programmazione. Abbiamo cercato di attivare tutte le collaborazioni, i vincoli e le partecipazioni non solo interne di Femministe Indignate, nel senso che non tutte le attività sono realizzate direttamente da Femministe Indignate, se no ci è sembrato anche un modo di rafforzare poi la partecipazione e la collaborazione con tante persone femministe, lesbiche, collettivi, organizzazioni che chissà non sono necessariamente interne alla Femministe Indignata, che però sono parallele, vicine, amiche, e quindi in questo senso anche cercare di, con questa coordinazione, visibilizzare anche le tante cose che si fanno. Benissimo, e hanno risposto a quanto pare, perché insomma il programma è molto fitto, siete riusciti a riempire tutte le giornate ampiamente, direi. Il programma è molto fitto, è andato oltre le nostre aspettative. sì, siamo riusciti a programmare un'attività al giorno, cioè non siamo riusciti ovviamente a coprire diciamo un po' tutti i temi e tutti gli ambiti legati alla violenza di genere, però siamo riusciti a organizzare attività dalla transfobia, attività sui micro macismi e le violenze di genere invisibili, più legate ai ruoli di genere che si trasmettono nella cultura, video forum anche vincolando guardando alla dimensione della violenza di genere nell'ambito specifico della migrazione, quindi delle donne migranti, e così come tante altre attività. Iniziamo il 25 di novembre con l'adesione alla marcia unitaria, che diciamo una marcia abbastanza ufficiale contro la violenza contro le donne e le bambine, però come Femministe Indignate partecipiamo con uno spezzone come marcia della Sputas, perché per richiamarci un po' a questa iniziativa che è partita l'anno scorso dal Canada e che poi è stata realizzata in varie parti del mondo, e anche perché ci sembrava un'ottima maniera di aderire, diciamo, allo slogan, alla parola d'ordine della manifestazione di quest'anno, che è no e no, per cui rivendicare la libertà di essere, comportarci, vestirsi, eccetera, eccetera, come ci pare, e mai questionare la persona che riceve una violenza di genere, ma la persona che l'agisce in questo senso. Continuiamo poi il giorno dopo con un aperitivo in solidarietà a Caladonna. Caladonna è una rete storica di collettivi e gruppi femministi qui a Barcellona, che da poco si è trovata senza la sua sede ed è in una fase di tramitazione, diciamo, di assegnazione di uno spazio da parte dell'amministrazione pubblica, che è rimasto un po' nel vuoto, e quindi diciamo c'è una campagna di appoggio a Caladonna perché, diciamo, gli accordi vengano compiuti da parte dell'amministrazione. Quindi ci sarà un aperitivo tematico sulle violenze di genere e sull'autodifesa femminista in piazza il sabato. Poi continueremo con la domenica con un taller per imparare a dire di no e a ponere i limiti nelle relazioni interpersonali. Continueremo poi con uno spettacolo di marionette per un pubblico adulto, per persone adulte, sui femminicidi a Ciudad Juárez. Continuiamo poi con diverse attività. Non so se vuoi che vada un po' attraverso la programmazione o se ne volete parlare voi dopo, o magari lo facciamo con degli aggiornamenti nelle prossime settimane. Sicuramente lo faremo anche con degli aggiornamenti nelle prossime settimane, per dare un'idea comunque della, appunto, quantità di iniziative. Possiamo anche continuare fino a che la carta permette, insomma c'è anche questo taglier del micromacismo. Ok, Esattamente, c'è un taglier di micronazismo che lo danno delle compagne che vivono in Salvador e che stanno appunto in queste prossime due settimane in giro per lo Stato spagnolo, quindi ne approfittiamo. Poi continuiamo il 30 novembre con un dibattito su il femminismo, i femminismi dentro i movimenti sociali, che è organizzato in collaborazione con l'assemblea di quartiere del quartiere San Andreo, dove si realizzerà. Per il 1° di dicembre non realizziamo nessuna attività noi come femministe indignate, se no che appoggiamo le varie attività di visibilizzazione e sensibilizzazione che organizza il comitato 1° di dicembre qui a Barcellona. Continuiamo poi il 2 di dicembre con un video forum su violenza di genere e migrazione che è organizzato da un gruppo di lavoro intorno alle femministe indignate. Continuiamo poi con il 3 di dicembre invece con la proiezione di un documentario realizzato da una femminista indignata quest'estate in Colombia e in Bonaventura per parlare della violenza di genere in situazioni di conflitti armati. Il 4 di dicembre ci sarà un taller di un workshop di sessualità aperto a donne lesbiche, trans e persone intersex nel quartiere di Sants. Continuiamo il giorno 5 con un video forum dibattito sulla transfobia come violenza di genere. Il giorno 6 invece c'è un taller, un workshop sempre sulla violenza verso le donne, la violenza economica e la violenza sul posto di lavoro verso le donne, per poi continuare con il 7 di dicembre con una tavola rotonda sul lavoro sessuale e come nello specifico le leggi locali e nazionali vanno a stigmatizzare, criminalizzare e a perseguire le persone che effettuano lavoro sessuale. L'8 di dicembre c'è un taglier aperto. Il suo credito è esaurito. Riagganciare. Grazie. You have no credit remaining. Please hang up. Voto. My man Little Bass. Jerry, one time. ¿Estás harta de que te griten piropos en la calle? ¿Estás harta de tener que pedir permiso? ¿Estás harta de no poder usar libremente tu tiempo y tu dinero? ¿Estás harta de ver mujeres aparecer en los medios como objeto de deseo? ¿Estás harta de que decidan sobre tu cuerpo? ¿Sobre tu cuerpo? Entonces, ¿estás harta de la violencia machista? Harta de la violencia machista. Harta Frecuencia, por Red Nosotras Radio. Este 25 de noviembre, a 30 años de la lucha organizada en contra de la violencia hacia las mujeres, escucha Harta Frecuencia. Por Red Nosotras Radio, www.rednosotrasenelmundo.org. We've been used and abused, tested and molested. E allora sì, torniamo in diretta, purtroppo la tessera ci ha abbandonate, comunque abbiamo avuto tempo non di ringraziare la compagna al telefono, ma insomma per avere un'idea di questa 16 giorni di mobilitazione, noi previo comprando una scheda nuova la chiameremo nelle prossime settimane, ci faremo aggiornare. Non abbiamo avuto neanche modo di ricordare insomma che la coordinamenta... Il collegamento con la coordinamenta di Roma, ma non fa niente. Ci sentiremo anche perché noi dopo il 25 programmeremo anche noi, come abbiamo già quasi definito, tutta una serie di appuntamenti e quindi ne riparleremo sicuramente. Va bene, allora noi facciamo un altro piccolo stacchetto musicale e torniamo invece in Italia e appunto ascoltiamo qualcuna delle prossime iniziative per il 25 novembre. Oh, you fi go brag about your cabin stabbing, and is a child you are molesting. Illegally to cradle you robbing, on a pedophile we just not forgive him. Oh, you fi go brag about your cabin stabbing, and is a child you are molesting. Illegally to cradle you robbing, just on a pedophile we just say no to incest. I never let it rest, no touch your family worse when it comes to sex. Say no to incest, never let it digest from you. sexual lust. That's when you transgress. Say no to incest. I never let it rest. Not touch your family worse. When it comes to sex, say no to incest. Never let it digest. Say from you a lust. That's when you transgress. Stifle in the lust and take your mind off of the child. She's only 13 with a cute little smile. Very much on that age. Mature profile. She's going to school. Now what I make that spoil. She have ambitions, desires and dreams. She can accomplish whatever it seems. Don't you introduce her to your perverted schemes. Leave her alone, she already has your genes. Say no to incest, never let it rest. Not touch your family worse when it comes to sex. Say no to incest, never let it digest. Say from your start, no start when you transgress. Hey, oh your figure brag about your cabin stabbing. And is a child you are molesting. Illegality cradle your rabbin. One a pedophile will just not forgive him. Oh your figure brag about your cabin stabbing. And is a child you are molesting. Illegality cradle your rabbin. One a pedophile will just. Teenagers like she will the mind is fragile. Don't you be fooled by the fancy hairstyle. Remember now that she is fertile. Too young to decide everything worth. Adolescence approach, a new adventure. And no need to rush, keep your composure. And in time to come, you will get more pleasure. Innocent at heart, she no backbencher. Say no to incest, I never let it rest. Not touch your family worse when it comes to sex. Say no to incest, never let. E allora, come annunciato, torniamo in diretta, siamo in collegamento con l'Aquila, con Simona del gruppo Donne Terre Mutate. Ciao, ben trovata. Ciao, grazie, grazie a voi. Ciao, allora voi state organizzando per il 25 novembre un'assemblea cittadina e poi in particolare con le donne che appunto vogliono partecipare al progetto di una casa delle donne da costruire lì all'Aquila. Sì, noi abbiamo pensato di farla in questa giornata del 25 che per noi è molto importante proprio perché è una giornata internazionale dedicata alle donne e alla violenza che subiscono, perché in qualche modo è anche una giornata significativa doppiamente, lo è diventata dopo il terremoto, visto che purtroppo l'Aquila è diventata la metafora secondo noi anche di un corpo, un territorio che si fa corpo e che è stato ampiamente violentato e saccheggiato. Ecco perché avevamo già lanciato l'idea di una casa che torna ad essere aperta nel cuore, nel centro storico di una città, ed ecco perché torniamo su questo, perché è un progetto che non intendiamo assolutamente abbandonare nonostante le difficoltà oggettive, perché ripeto, il palazzo che abbiamo individuato è un palazzo in centro storico e in tutti i modi hanno già provato e magari continueranno a scoraggiarci, ma appunto non solo non ci scoraggeremo, ma andremo avanti su questo perché capiamo quanto sia ormai chiaro l'intento di tenere fuori, continuare a tenere fuori le donne e gli uomini dal centro vivo di questa città. E quindi in questo senso la giornata del 25 diventa un'occasione per condividere con tante altre questo progetto che ha avuto una grande risonanza a livello nazionale, perché c'è la solidarietà e la condivisione di tante donne che addirittura sentono che questa casa può essere un luogo di riferimento nazionale per il pensiero e l'elaborazione delle donne. Sì. E in più purtroppo saremo costrette ad usare questa giornata, questo lo aggiungo rapidamente ma è importantissimo, per denunciare una delle ultime vergognose ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri intorno all'11 novembre 2011, quindi cosa recentissima, con cui si stabilisce che i 3 milioni di euro che erano stati destinati ai centri per le donne terremotati, diventati poi 1,5 milioni, diventano soldi da destinare a centri antiviolenza, future case poliedriche, definite così dalla stessa norma, luoghi da affidare eventualmente alla gestione delle diocesi. Mamma mia. Diocesi di cui per esempio quella dell'Aquila è in questo momento sotto indagine. Tra l'altro, per eventi gravi su cui si sta approfondendo legati all'utilizzo di risorse pubbliche che erano state destinate sempre dopo a causa del terremoto. Quindi questo lo dico perché purtroppo certo, il 25 diventa l'occasione per denunciare anche l'ennesima violenza compiuta sui corpi, sulle vite delle donne, che diventano ancora di più oggetti da regolare attraverso le diocesi, quindi con soggetti ben individuati. Sì, del resto appunto L'Aquila è proprio un laboratorio, è stato un laboratorio del controllo sociale. Noi ci siamo incontrate il 7-8 maggio, quando avete fatto la chiamata, diciamo, nazionale, l'incontro di donne, e appunto avete raccontato moltissime cose. Noi abbiamo fatto anche una trasmissione su questo, e volevo chiederti come ultima cosa che cosa sono le staffette che avete organizzato per sostenere, credo, questo vostro progetto della Casa delle Donne all'Aquila. Sì, le staffette in realtà non sono state organizzate da noi, ma ancora di più sono state il frutto dell'attenzione, della cura e della sensibilità di tutte le donne che sono venute all'Aquila il 7-8 maggio, anche di tante altre, che dopo quell'esperienza hanno deciso di fare nelle loro città, nei loro luoghi, iniziative dove ci invitano, ci consentono di raccontare, di testimoniare, di denunciare, e soprattutto ci sostengono anche economicamente con una raccolta fondi straordinaria che va tutta nella direzione di rendere più facile, ma soprattutto più condivisa, la realizzazione della Casa delle Donne. Ecco perché veramente ormai non è, per fortuna, la Casa delle Donne dell'Aquila, ma diventa un luogo di riferimento per tutte. Sì, va bene Simona, noi ti ringraziamo molto, lo ricordiamo, venerdì 25 novembre dalle 17 nel tendone, sì, di Piazza Duomo. Va bene, e allora ci sentiamo comunque presto per aggiornamenti, e grazie. Grazie a voi, grazie a tutte. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao. E allora torniamo in diretta, siamo in collegamento con una compagna del collettivo femminista dei generi di Terni. Ciao, ci senti? Ciao, sì, ciao. Sì, ci sento benissimo. Ben trovata. Mi sentite voi? Perché è un problema con un po' di problemi di fondo, vabbè, sto quasi per strada, insomma, scusate, però... Noi non importa, ci interessa, dai, diciamo, il contenuto di questo tuo intervento. E, raccontaci che cosa farete voi il 25 novembre a Terni. Bene, senti, allora, noi siamo, come hai detto bene, il collettivo, un'assemblea di donne del genere, e da circa un anno stiamo lavorando per fare una controinformazione massiccia su il diritto all'aborto, e nello specifico sull'applicazione della pillola RU486. E dopo un anno di mobilitazioni, assemblee, manifestazioni e volantinaggi siamo riusciti ad avere per fortuna la delibera in regione a luglio scorso per il day hospital. Il problema è che manca la comunicazione ufficiale dell'ASL agli ospedali e ai consultori, quindi di fatto la RU non è assolutamente applicata, se non ancora con il regime dei 3 giorni di ricovero ordinario. Questo ha ovviamente ha comportato di nuovo una rimessa in discussione del diritto all'aborto delle donne. Per questo motivo stiamo il 25, il 26 anche perché soprattutto scusa il 26 perché a Terni l'iniziativa sarà fatta il 26. Ci sarà un'iniziativa a sostegno appunto del diritto all'aborto, perché noi crediamo utile sottolineare ancora una volta quanto la violenza sul corpo delle donne si perpetra in questi ultimi ventenni, quest'ultimo ventennio, trentennio, ma poi insomma possiamo anche andare indietro col tempo, il corpo delle donne a livello sanitario. Infatti staremo in piazza con un volantino di denuncia, un ulteriore volantino di denuncia dell'inadempienza da parte della regione e di conseguenza da parte dell'ASL di questa mancata notifica da parte dell'ASL agli ospedali e ai consultori. E questo comporta in tutta la regione ovviamente una delega continua agli ospedali e ai consultori gli ospedali dove è massiccia la presenza dei medici obiettori. E a Terni ad esempio sono 3 soltanto i medici non obiettori, e quindi di fatto il diritto all'aborto è continuamente negato se non viene applicata questa delibera per il day hospital. Quindi voi farete un volantinaggio sabato 26. Sabato 26, sì, esattamente, saremo in piazza con questo volantinaggio per rilanciare l'occasione per rilanciare poi un presidio sotto la ASL dove stiamo continuando a fare ovviamente pressioni verso il direttore sanitario e il direttore generale che si mostrano sempre più assenti a questa loro inadempienza, e quindi rilanceremo questo presidio che faremo sotto la ASL credo per i primi 15 giorni di dicembre. Quindi il volantinaggio di sabato è finalizzato soprattutto a sensibilizzare tutte quelle donne che ancora non sanno della situazione che si sta vivendo qua in Umbria per essere presenti più possibile sotto l'ASL per farci sentire in modo molto più corale, ecco, piuttosto che individualmente come stiamo facendo con lettere all'ASL direttamente. Certo, va bene, poi magari anche per questa mobilitazione ci possiamo aggiornare, volentieri ospitiamo insomma le vostre voci anche qui dal martedì autogestito, insomma. Perfetto, va come bene. Sempre. Allora grazie. Ti ringraziamo, buona lotta e a presto. Grazie. Ciao. Bene, grazie, ciao, un bacio a tutte. Ciao. Ciao. Ciao. Estoy harta de la heterosexualidad obligatoria. Contradict myself daily. Every day your words make me feel even less valid than before. I relearned the art of violence over silence for the sake of survival every day. E adesso siamo in diretta con Patrice della Rete Internazionale delle Donne in Nero. Ciao! Ciao! Ciao! Bene, siamo in collegamento con te perché volevamo un po' sapere quello che sarebbe, che avverrà con la ruta a Bologna, Pacifica, in piazza con le donne colombiane, della ruta pacifica de las mujeres. Raccontaci com'è nato, che cosa succederà. Ecco, ci vorrebbe molto tempo per raccontarlo, ma per fare una cosa molto sintetica dirò che l'incontro con la Ruta Pacifica de las Mujeres come Donne in Nero l'abbiamo avuto nel 1996, cioè non nel 1996, nel 2001. E nel 1996 sono nate, è nata la Ruta Pacifica de las Mujeres, a cui aderiscono più di 350 organizzazioni e gruppi di donne colombiane con più di 4.000 attiviste e, in nove regioni, sono presenti in nove regioni della Colombia e hanno aderito alla Rete Internazionale delle Donne in Nero nel 2001, come dicevo prima. Riconoscendo nella rete gli stessi obiettivi e la stessa analisi anche dei conflitti armati che come Donne in Nero facciamo nel mondo. Dal momento in cui hanno aderito alla rete internazionale hanno assunto anche i nostri simboli, come il fatto di fare dei planton, cioè delle uscite in nero, in silenzio, con uno striscione in cui si dice che le donne, per esempio, non partoriscono figli e figlie per la guerra, oppure si dice soy civil, sono civile e quindi non rifiuto ogni arma. E molte altre. Senti Patrizia, ma per sì. Bologna cosa state organizzando? E dunque, che cosa è successo? È successo che quest'anno abbiamo fatto l'incontro internazionale delle donne in nero in Colombia e così dopo l'incontro internazionale noi avevamo chiesto di andare ad incontrare delle donne in un luogo emblematico del conflitto armato. E questo luogo emblematico che ci hanno portato è Puerto Buenaventura. Lì abbiamo potuto conoscere delle donne che pur in una situazione gravissima di violenza contro le donne e di violenza sia come uso del corpo delle donne come bottino di guerra, come campo di battaglia, sia come proprio violenza che è esacerbata dalla situazione di conflitto armato, violenza normale che è esacerbata dalla situazione del conflitto armato, ma donne però attive, molto, molto in gamba, anche se vittime, però attiviste della pace, attiviste dei diritti delle donne. E con loro abbiamo preso un impegno molto importante che è quello di far conoscere questa realtà e di far sì che molti soggetti, sia istituzionali che di altri gruppi di attivisti in Italia, potessero dichiarare la loro solidarietà alle donne di Puerto Buenaventura, ma in modo attivo, cioè facendo un richiamo anche alle istituzioni, al governo colombiano, perché questa situazione finisca. E così siamo riuscite ad organizzare questa giornata del 25 novembre in cui ci collegheremo con Puerto Buenaventura, dove queste donne hanno deciso che il 25 novembre faranno 25 ore di presenza nella città di Puerto Buenaventura, che conta 350.000 abitanti come Bologna, 25 ore durante le quali noi per un'ora, un'ora e mezza potremo essere in contatto con loro diretto, e quindi sarà una cosa molto molto emozionante per noi che insomma siamo state lì, abbiamo conosciuto la realtà, abbiamo visto come insomma sia dura la vita in quel posto e come queste donne siano coraggiose e veramente instancabili nella loro lotta per avere una vita migliore, per poter pensare a un futuro, per poter pensare a una vita senza paura e senza guerra. E questa iniziativa dove si tiene? Diamo l'appuntamento? L'appuntamento è a Piazza Renzo, lì faremo una catena di donne e avremo simboli, anche simboli colombiani, a dimostrazione della nostra relazione con loro. Anche gli altri gruppi di donne che non sono le donne nere avranno anche questi simboli. Consegneremo le muñecas della protezione, che sono le bamboline della protezione che avremo fatto noi stesse proprio a mano, le consegneremo alle donne che passeranno, e questo sarà un modo di fare qualcosa che avrebbero potuto fare loro stesse, ma essendo così lontane non possono. Allora noi lo faremo alle ore 21? Alle ore, cioè comincia l'iniziativa comincia 17:30-18, ma il collegamento sarà alle 20 con loro. Patrizia, sono Olga, ciao, ero qui in ascolto e volevo chiederti se ci aiuti a ricordare anche chi è che organizza con voi, c'è il gruppo Quelle che non ci stanno, mi avevi detto che eravate più gruppi se non sbaglio. O sì, forse... per ora, per quello che so fino a due giorni fa, perché penso che ci saranno state anche altre adesioni. Sì, quelle che non ci stanno, Clitoris Strix, Donne di Mondo e Donne in Nero, per ora, però insomma noi abbiamo mandato iscrizioni sono aperte, informazione anche a tanti altri gruppi di donne, quindi anche come singole potranno aderire all'iniziativa, ma probabilmente ci sarà stata già l'adesione di qualche altro gruppo, forse qualche altra che interverrà, magari ve lo saprà dire. Va bene, va bene. Patrizia, noi ti ringraziamo molto anche per la brevità, insomma, che abbiamo molte telefonate. Spero di essere stata esauriente, ci sarebbero tantissime cose da dire. Lo immaginiamo, magari però, ci prendiamo... il tempo è tiranno. Sì, perché ora parliamo esclusivamente, molto telegraficamente, delle iniziative. Poi magari ci prendiamo un po' di tempo per parlare con più calma, insomma, anche di questi aspetti certo, più internazionali. Sarà un grande piacere. Per me, va bene. Che ho vissuto questa esperienza straordinaria, che è la mia seconda volta comunque in Colombia con le donne della Ruta, quindi so molte cose e sono veramente molto legata a questa, ho una relazione molto forte con questa realtà di donne, straordinaria. Va bene. Grazie, ciao. Ciao Patrizia, grazie. Ciao, grazie ciao. A voi. No! Estoy harta de la opresión del patriarcado. E siamo in diretta invece con Jenny Trieste. Ciao. Grazie, ciao. Grazie della chiamata, mi fa molto piacere sentirvi. E anche a noi, anche altrettanto. A noi. Ci allora, racconti? Stiamo parlando. Pronto? Sì, ci senti? Guarda, stiamo parlando, noi ormai andiamo in automatico, del 25 novembre. Sappiamo che tu hai delle informazioni da darci, insomma, di cosa succede a Trieste e a Udine in particolare, no? Sì, ho delle informazioni da darvi sulle giornate del 25. Allora, cominciamo da cominciamo dalle cose istituzionali che a voi piacciono tanto, soprattutto alla mia amica Elisabetta. Ecco, allora, noi abbiamo un piccolo comune vicino a Trieste che fa una bellissima mostra che si chiama Voci nel Silenzio, che si inaugura proprio il 25 novembre. Si chiama Voci nel Silenzio, la violenza nega l'esistenza. Questa è una mostra che ovviamente è da vedere, quindi per radio non posso farvela vedere, però ci sono delle cose molto interessanti, durerà 3 giorni. Poi abbiamo le solite cose più istituzionali della Casa Internazionale della Donna, che fa una serie di iniziative che vi risparmio per mantenere la vostra amicizia e invece vi dico che la cosa più interessante di queste iniziative, chiamiamole così, istituzionali, è una iniziativa del nostro GOAP, che è il Centro Antiviolenza di Trieste, che fa una giornata il 2 dicembre, però perché il 24, 25, 26, 27 era fitto, questi erano fitti questi incontri istituzionali, tra cui un incontro di tutto il consiglio provinciale con le organizzazioni delle donne, di tutto il consiglio comunale, e loro hanno deciso di fare il 2 dicembre invece un dibattito tipo assemblea cittadina sul ruolo degli uomini maltrattanti rispetto al contesto nostro, insomma, in cui viviamo noi, quindi esperienze dirette di donne e anche un percorso di uscita di queste donne che hanno subito una violenza in famiglia o che per anni sono state soggette alla violenza di figli e mariti. Noi qui a Trieste abbiamo una situazione anomala rispetto al fatto, cioè anomala, non so se è anomala, ma che a noi ci stupisce molto, che ci sono molte donne anziane maltrattate sia dal marito che dai figli, e quindi c'è questa giornata dedicata a questo che per noi sarà un'occasione molto interessante. Comunque invece, coordinamento Donne Trieste, questo che volete sapere, abbiamo fatto un bellissimo volantino che si chiama Giornata contro la violenza maschile sulle donne, con una citazione, guardate, proprio di Simone de Beauvoir: donne non si nasce, si diventa. 2 pagine fitte di contenuti nostri e vostri che andremo a diffondere per la città tra le donne in 2 presidi banchetta. Vediamo cosa ci riesce. Pronto? Sì, stiamo ascoltando. Ci siete? Siamo rapite. Non vi leggo il volantino perché è noto. È già noto, la citazione, ecco, Simone de Beauvoir. È una socializzazione di un testo che già conoscete. Abbiamo deciso che forse faremo anche 2 banchetti e 2 presidi. Oggi abbiamo deciso in una riunione di fare proprio nel centro della città, soprattutto nelle zone in cui partono le corriere per le periferie, quindi in modo da riuscire a toccare anche le donne che non vengono solo nel salotto buono della città, ecco. Che è una bella questo cosa. Quanto? Sì, hai fatto, è giusto, è una bella, è giusto, perché altrimenti le iniziative non arrivano dove devono arrivare, no? Sì, riconosco questa voce, non è Valeria. No, non è Valeria. Ciao Jenny. Sì. Da noi si dice ti conosco mascherina. Va bene. La conosciamo ormai in tante tante. No, il problema è stato questo un po', che noi un po' ci siamo per ingenuità affidate a queste cose istituzionali. Poi ci siamo rese conto in una riunione l'altra settimana che non corrispondeva per niente alla nostra idea di 25 novembre. E quindi abbiamo deciso di fare queste due iniziative, se non di lotta, perlomeno di informazione e presenza più militante, ecco. Certo. Va bene. A cui spero aderiscano tantissime compagne, perché abbiamo inviato il volantino, del volantino abbiamo fatto tantissime copie e le abbiamo girato a tutte le compagne che stanno in Facebook di Coordinamento Donne Trieste e anche nella main list del Coordinamento Donne Trieste e anche in un nuovo Facebook di Se non ora quando Trieste, appena nato. Benissimo, allora l'ultimissima cosa che siamo in chiusura riguarda Udine, che sappiamo anche lì ci sarà un'iniziativa, tu sei informata? Me la son persa questa di Udine. Adesso non la trovo. Va bene, noi lo segnaliamo. So che fanno una musica per le donne il pomeriggio, la sera in un circolo dell'Arci. Benissimo. Che si chiama Miss K. Per cui ho chiesto che mi mandassero delle notizie più precise. Comunque chi è interessato può andare nel sito Facebook del Coordinamento Donne Trieste e trova anche Udine. Benissimo. E noi mettiamo sempre anche Udine, se proprio una in zona e vuole andare assolutamente a Udine il 25, trova le indicazioni in Coordinamento Donne Trieste. Va benissimo. Jenny, noi ti ringraziamo molto e con la tua è l'ultima telefonata che chiude questo spazio, ti salutiamo e ci aggiorniamo insomma le prossime settimane. Ci saranno occasioni, per sentirci. Sì. Ciao Jenny. Grazie molte. Ciao. E allora sì, chiudiamo direttamente questo mini pimer di oggi dedicato alla giornata mondiale contro la violenza contro le donne che si tiene venerdì 25. Abbiamo fatto appunto una carrellata, salutiamo comunque tutte le ascoltatrici, le donne che insomma femministe e lesbiche che organizzano iniziative il 25 e non solo. Salutiamo le donne all'ascolto da Red No Otras e nel mondo. Sì, uno là, alle spagnole che ci ascolteranno il 25 novembre, ma non solo, anche alle colombiane, a tutte quelle che in streaming si connetteranno al sito della Red Nosotras. Esatto, e sceglieranno proprio la trasmissione in italiano. Comunque, grazie ad Arta Frequenza per ospitarci e ci sentiamo presto. Ciao. Estás escuchando Arta Frequenza, en el Día Internacional de Lucha. Thank you.